pazzo, signora solitudine, fa compagnia più di tutte, della droga che ho provato. La signora solitudine fa più compagnia di tutte. Yo. La signora solitudine filtrata addosso in un flusso d'ansia, la guardo e scopro. Il silenzio lavora come l'assenzio, ebro di lei come un paradiso, al sapore al di lei. Il silenzio lavora come l'assenzio, ebro di lei come il paradiso, al sapore del di lei. Al sapore del di lei. Paradiso, paradiso al profumo di una fragola marcia, atteso nel fumo di una sigaretta rancida, gremo un altro tocco acida, la stanza mi fa mistica, la vista a me fista, paradiso al profumo di una fragola marcia, atteso nel fumo di una sigaretta rancida, gremo un altro tocco acida, la stanza mi fa mistica, la vista a me fista. Diavolo muto, ormai sparito, forse in me reincarnato, nato in un giorno di rose, ora l'odio si fa spazio nel mio cuore. Il diavolo muto, ormai sparito, forse in me reincarnato, nato in un giorno di rose, ora l'odio si fa spazio nel mio cuore. La pianta dei limoni rancida, acida, della mia lirica, scalda un altro cucchiaio indietro il dolce albatro dell'eroe, mentre l'abbandono scorre tra le vene, dolcezza amara sublime, mentre l'abbandono scorre tra le piume, eleganza folle. La pianta dei limoni rancida, acida, della mia lirica, scalda un altro cucchiaio indietro il dolce albatro dell'eroe, mentre l'abbandono scorre tra le vene, dolcezza amara sublime, mentre l'abbandono scorre tra le piume, eleganza folle, eleganza folle. Rimane l'amore nella mente, perché la memoria inebriante prende accanto al cielo in fiamme il suo posto. Vuole essere fumata ad ogni costo, insieme acide fumogene, ribellione delle vene, il primo grande amore perso, un'altra donna con cui stare assieme. Rimane l'amore nella mente perché la memoria ne piante, prende accanto al cielo in fiamme il suo posto, vuole essere fumata ad ogni costo, insieme acide fumogene, ribellione nelle vene, il primo grande amore perso, donna con cui stare assieme.